GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Sul sentiero Rilke, fiamme dolose, individuata una traccia di innesco sul primo fronte del fuoco. Vertenza Marsila sul porto, interporto in stato d'agitazione, non imbarcheremo, i motori pronti. Torna positivo il saldo delle imprese nella montagna friulana e molte sono femminili. Oltre al West Nile, ecco Usuto, primi due casi in regione, sono donatori di sangue, asintomatici. 21enne bloccata sul Coglianzi, il fratello chiama i soccorsi, recuperati dall'elicottero. Nuoto agli europei di Roma, quarta la staffetta con Alice Mizzao, niente finale 50 farfalla per Codia. Sarà Milan Udinese ad aprire domani il campionato di calcio friulani al 50° anno in Serie A. 7:19 di venerdì 12 agosto. Buongiorno da Maria Spezia e Rita Miccoli. Uno sguardo alla situazione meteo. Il cielo è da nuvoloso a coperto sulla regione. Le temperature registrate alle 6. A Trieste 23 gradi, vento da est nord-est, bora 27 km orari con raffiche di 50 km orari, mare quasi calmo, 21 gradi. A Udine 24 gradi, a Gorizia 23, a Pordenone 20, a Tolmezzo 19 gradi, a Forni di Sopra 15, a Tarvisio 14 gradi, a Sappada 13, sul Piancavallo 10 gradi e mezzo, sullo Zoncolan 10 gradi, sull'Ussari 8, sulla costa Lignano 25 gradi e 5 decimi, a Grado 23 gradi e mezzo, temperatura del mare 25 gradi e 5 decimi. Le previsioni a cura dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per oggi: ci sarà nuvolosità variabile con alternanza di schiarite più frequenti verso la costa e annuvolamenti. In giornata saranno possibili locali piogge e qualche rovescio temporale. Non si esclude che qualche isolato temporale sia più forte su pianura e costa, soffierà bora moderata, specie dal pomeriggio. E ci sarebbe la mano dei piromani, almeno dietro l'ultimo degli incendi che hanno messo in scacco Trieste e il Carso nelle ultime settimane, quello divampato ieri mattina tra Sistina e Monfalcone, con conseguenze pesanti anche sulla viabilità, e con lo svincolo di Duino verso Trieste della 4 riaperto solo a metà pomeriggio. È la prima volta in questa estate di fuoco per il Friuli Venezia Giulia che si parla di dolo. L'incendio, sotto controllo, ha interessato la zona boschiva tra Duino e Sistiana, a Trieste, a poca distanza dal campeggio. È partito alle prime luci dell'alba, ma in questo caso è stata evidenziata quasi subito una linea retta di innesco di una cinquantina di metri all'interno del bosco. Sentiamo il vice sindaco Mitia Petelin. Da subito mi è stato detto che i vigili del fuoco sono stati i primi ad intervenire e hanno trovato una linea retta di una sessantina di metri, una linea d'incendio, il che non fa ben pensare. D'altra parte la protezione civile mi ha detto questa linea di fuoco era in prossimità, una ventina, trentina di metri vicino al perimetro del vecchio incendio, per cui non si esclude ancora qualche correlazione col vecchio fronte, però sicuramente questa linea di 50-60 metri retta fa pensare. Le strade, già in tarda mattinata, lo svincolo autostradale e la statale sono ritornate ad essere percorribili, la statale 14 soltanto nel senso di marcia in uscita da Trieste per lo stazionamento dei mezzi di soccorso. La bonifica va avanti con il vento che può sempre dare ossigeno al fuoco e il terreno davvero mai così secco e capace di covare la combustione. Antonio Capovilla, Corpo Forestale Regionale. Particolarmente in questa situazione qui di Duino l'intervento di spegnimento e bonifica è impegnativo perché c'è molto materiale organico nei primi strati del terreno. Conseguentemente tutta materia organica che determina situazioni di combustione lenta ma sempre pronta a riprendere. Siamo impegnati a fare la cosiddetta bonifica e a estinguere del tutto le fiamme. Duino Urisina, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Torniamo a parlare di manutenzione boschiva a fini antincendio. Un importante progetto di diradamento della pineta e pulizia del sottobosco è stato concluso a febbraio-marzo a Monfalcone, nella grande area boschiva di proprietà del comune. Un intervento che aveva preoccupato ambientalisti e cittadinanza, ma che tecnici e forestali definiscono necessario e opportuno per il benessere del bosco. Se scopriamo perché. Tronchi tagliati tra il verde del bosco, 1300 metri cubi di legname portato via, è paradossale dirlo, ma è servito a ridare ossigeno al bosco. Proprio nei giorni in cui gli incendi stanno devastando il Golfo di Trieste, siamo venuti a visitare quest'area verde di proprietà del comune di Monfalcone, sulla quale è stata appena conclusa una prima opera di diradamento della pineta, definita dall'Ispettorato Forestale esempio concreto di buona manutenzione boschiva ai fini anche antincendio. Con 200.000 euro di fondi regionali sono stati trattati 45 ettari di carso, ampliati sentieri, diradato il pino nero, una specie impiantata negli anni 60. Giancarlo Quaglia, progettista. Essendo una specie resinosa è molto combustibile e in questa maniera qua favorisce la propagazione degli incendi boschivi, per cui il pino nero deve essere gestito. E l'intervento di diradamento che c'è stato è servito proprio a ridurre la densità del bosco per maniera tale da favorire la ripresa delle latifoglie. L'intervento, iniziato a novembre, si è concluso a marzo, ma non sono mancati malumori. Il taglio degli alberi, definito necessario e opportuno dai tecnici, non era stato compreso. Enrico Englaro, dirigente area tecnica comune di Monfalcone. Perché comunque forse a livello pubblico è inteso che questo è più un parco urbano che un'area forestale. In realtà è un ambito forestale vero e proprio e quindi va curato come selvicoltura e con le capacità, le specifiche tecniche necessarie. A ridosso delle rotaie del treno, quest'area negli anni è stata oggetto di tanti incendi, nel 2009, nel 2016 e in parte anche in questi giorni. Le fiamme però non hanno raggiunto l'area trattata. Se fosse successo si sarebbe potuto intervenire in tempo. Andrea Olivetti, coordinatore protezione civile. Perché la viabilità forestale sicuramente offre la possibilità di transito di mezzi che potrebbero intervenire rapidamente e direttamente poi sul punto dell'incendio. Un intervento di tale portata è stato possibile nel pubblico, ma il carso è costituito per lo più di tante proprietà private che difficilmente hanno le risorse per le bonifiche. Immaginiamo che la data del 19 luglio 2022 rappresenti uno spartiacque sul futuro della gestione di tutto il carso e dell'ambiente. Monfalcone, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Altra emergenza di questa difficile estate è quella idrica dovuta alla siccità. È scattato a mezzanotte lo stop alle irrigazioni del mais e della soia nel Pordenonese fino al termine della situazione di crisi, un provvedimento che il consorzio di bonifica Cellina Meduna aveva inizialmente deciso di far partire a Ferragosto, ma che ha anticipato. Continueranno a ricevere acqua con orario ridotto i terreni coltivati a colture pluriennali. La crisi Varzi, la Trieste, le sigle del trasporto di CGL, CISL, UIL e UGL hanno dichiarato lo stato di agitazione del personale che opera nel porto di Trieste a sostegno dei lavoratori dello stabilimento Varzila che rischiano il posto di lavoro. Potrà quindi essere attuata l'astensione volontaria da parte degli operatori portuali di tutte le operazioni riguardanti la Varzila, come l'imbarco dei motori a bordo delle navi cargo. Una decisione presa alla luce degli sviluppi della vertenza, con le pressioni da parte di aziende e clienti di Varzila di far uscire i motori attualmente stoccati nei magazzini dello stabilimento giuliano. Lo stato di agitazione è stato dichiarato da USB Mare Porti Trieste anche all'Interporto di Trieste, dove potrà essere attuata l'astensione volontaria da parte dei lavoratori di tutte le operazioni riguardanti la Varzila, come il carico di materiali connessi alla produzione di motori. E sulla vicenda il governatore Fedriga ha scritto al console generale della Repubblica di Corea esprimendo comprensione per le difficoltà che l'azienda coreana Daewoo sta subendo per il ritardo nella consegna dei motori prodotti a Sant'Orligo, ma allo stesso tempo ricordando che a provocarlo è stata la decisione improvvisa della proprietà di avviare il licenziamento per 450 dipendenti e chiedendo al diplomatico di rappresentare ai vertici dell'azienda finlandese il disagio per la chiusura dello stabilimento di Sant'Orligo. Parliamo ancora di imprese, in particolare di imprese con sede in montagna che per la prima volta dopo 15 anni vedono un saldo positivo tra quelle iscritte e quelle cessate. Nei comuni montani anche la presenza di imprese femminili risulta più elevata rispetto al resto della regione. crescono tra il 2020 e il 2021 con un tasso pari a più 1,3% le imprese in montagna, con un saldo lo scorso anno che per la prima volta è positivo dal 2006. Aumenta anche dell'1,8% il numero di unità produttive dal 2019 al 2021 e sono sempre più le imprese artigiani femminili e under 35. Questi dati emersi dall'Osservatorio della Montagna del Friuli Venezia Giulia, che il Centro Sud della Camera di Commercio Pordenone Udine pubblica periodicamente. Lo studio prende in esame le imprese in 58 comuni montani della regione, tra Carnia, Canal del Ferro, Valcanale, la montagna pordenonese, in tutto 4.588 imprese attive, concentrate per la maggior parte in Carnia e con una percentuale di imprese artigiane sul totale delle imprese attive che supera di un punto la media regionale. Nei comuni montani risulta più elevata anche la presenza di imprese femminili, sono il 26,4%, a fronte della percentuale regionale ferma al 23,1%. In questo caso il picco si tocca in Valcanale e Canal del Ferro, dove la quota di imprese guidata dalle donne sale addirittura al 30,1%. Anche le imprese under 35 superano la media regionale, pur restando sempre esigue in termini percentuali, 8,3% contro il 7,4% della regione intera. Il commercio rappresenta il 20,4% del tessuto produttivo montano, seguono i servizi con il 19,8% e i servizi di ospitalità con il 17,1%. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Approvato dalla Commissione europea il programma da quasi 90 milioni di euro di Stato, Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto e istituzioni slovene per l'impiego del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale tra Italia e Slovenia. Il progetto, denominato programma Interreg 6A Italia-Slovenia 2021-2027, è finanziato da quasi 71 milioni di fondi FESR più la quota di cofinanziamento nazionale. In programma sono inclusi investimenti di sostegno a ricerca e innovazione, introduzione di tecnologie avanzate per l'adattamento ai cambiamenti climatici, per la transizione verso un'economia circolare, la biodiversità e le infrastrutture verdi, nonché per cultura e turismo sostenibili. C'è poi un fondo per piccoli progetti destinati alle iniziative di Nova Gorizia e Gorizia, capitale europea della cultura 2025. Prevista poi la realizzazione di una rete di piste ciclabili nell'area adriatico-ionica, lo sviluppo sostenibile del geoparco del Carso, la promozione dell'area costiera e marittima e la tutela della biodiversità anche nei siti di Natura 2000 con il progetto Poseidone. A Palmanova oggi Consiglio Comunale straordinario alle 20:30 sotto la loggia di Piazza Grande, lo ha convocato il sindaco Giuseppe Tellini invitando tutti i cittadini a partecipare per chiedere di difendere la sanità territoriale per dire no a chiusure e depotenziamenti di servizi dell'ospedale. Sono stati invitati anche il presidente della regione Fedriga, il vicepresidente assessore alla sanità Riccardi e il direttore dell'azienda sanitaria Friuli Centrale Caporale, oltre a capigruppo regionali e sindaci. Sono le 7:30, ancora sanità regionale. Laura Regattin, attualmente direttore sanitario dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, passa al ruolo di direttore dei servizi sociosanitari di ARCS, l'azienda regionale di coordinamento per la salute. A nominarla è il direttore generale Joseph Polimeni. Individuata anche la nuova figura di direttore sanitario che sostituirà Regattin, si tratta di David Turello, già direttore dei servizi sociosanitari e direttore nei distretti di San Daniele, Codroipo, Gemona e Tolmezzo. E sono stati identificati in Friuli i primi due casi italiani di infezione umana da virus Usutu, virus simile al West Nile. Il servizio. Sono stati identificati in Friuli i primi due casi italiani di infezione umana da virus Usutu, virus simile al West Nile che viene trasmesso all'uomo attraverso la puntura di una zanzara infetta. Il dato dei due contagi è contenuto nell'ultimo bollettino dell'Istituto Superiore di Sanità sulla sorveglianza del West Nile virus e Usutu. I due casi di Usutu sono asintomatici, sono stati individuati durante gli screening delle donazioni di sangue. Il direttore del Centro Nazionale Sangue, Vincenzo De Angelis, già a capo del Dipartimento di Medicina Trasfusionale del Santa Maria della Misericordia di Udine, ci ha spiegato che il virus usuto è un cugino del West Nile con caratteristiche molto simili e proprio per questo il test che scopre il West Nile identifica anche l'usutu, che è però meno pericoloso. Con entrambi i virus, specifica De Angelis, abbiamo imparato a convivere. L'infezione da usutu nelle persone sane generalmente passa in modo asintomatico oppure con sintomi lievi, ma può essere insidiosa per le persone con un sistema immunitario indebolito da malattie croniche o immunodepresse. Gli screening del sangue donato, spiega ancora De Angelis, vengono fatti proprio a tutela di quanti hanno bisogno di emoderivati. Nada Choc, TGR Friuli Venezia Giulia. Sono stati 821 ieri nuovi contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia, che sono stati rilevati su oltre 5.300 test. Il tasso di positività settimanale ogni 100.000 abitanti si attesta a 471, confermando il trend di discesa. I ricoveri ieri erano in tutto 239, di cui 3 stabili in terapia intensiva, 5 ieri decessi, di cui 4 a Trieste e 1 a Udine. I comitati Salva Lago organizzano per oggi la conferenza alla SIOT e il Lago sui cogeneratori a metano della Società Italiana per l'Oleodotto Transalpino e il loro impatto sull'ambiente a Udine, nella sede della Regione di Via Sabbadini, alle 10. Nell'ambito della tradizionale iniziativa Ferragosto in carcere, organizzata dal Partito Radicale, in questi giorni delle delegazioni faranno delle visite ispettive in alcuni luoghi di reclusione del Friuli Venezia Giulia. Oggi a Trieste dalle 9 è prevista la visita di Patrizia Giaccone, Andrea Michelazzi, Gabriele Querce, Marco Gentili. Sempre oggi a Gorizia dalle 10 ci saranno Enrico Sbriglia e Antonio Comisso. Domani a Udine dalle 11.30 è in programma la visita di Andrea Piani, Anna Maria Malisani, Thomas Trino e Piero Mauro Zanin. Il traffico, partenze cadenzate per questo ponte di Ferragosto, quindi nessun bollino nero sulla rete autostradale di Autovie Venete. A caratterizzare le giornate a partire da oggi e fino a domenica sarà il rosso, traffico quindi sostenuto in entrambe le direzioni sulla A4 con possibili rallentamenti ai Caselli del Mare, in particolare domani sabato, quando si prevede il transito di circa 180.000 veicoli. Alla barriera dell'Isert è attesa l'uscita di circa 28.000 mezzi diretti verso le coste di Slovenia e Croazia, a cui si aggiungono gli 11.000 di Villessa e i 5.000 di Re di Puglia, i cosiddetti caselli alternativi. A seguire il casello balneare di Latisana con 17.000 transiti e San Donà di Piave in Veneto con 9.000. I flussi dovrebbero calare a partire dal pomeriggio di domenica 14 e assestarsi sui 140.000 transiti. Bollino giallo invece per la giornata di Ferragosto. Dalle 16 di oggi vige il divieto di circolazione per i mezzi pesanti fino alle 22. Nuovo stop per i mezzi pesanti dalle 8 alle 22 di sabato e dalle 7 alle 22 di domenica e di Ferragosto, lunedì 15. La cronaca, ieri intervento del soccorso alpino della stazione di Fornia Voltri e della Guardia di Finanza sul Coglians, con l'elicottero della protezione civile hanno tratto in salvo una 21enne friulana che era rimasta bloccata in un punto del sentiero attrezzato Riccardo Spinotti. La giovane stava scendendo quando si è calata verso la scaletta terminale lungo un canale sbagliato. Il fratello di 17 anni che era con lei è andato verso il rifugio Lambertenghi richiamando l'attenzione di una guida alpina austriaca che ha cercato di aiutare la giovane con la corda all'imbrago ma senza riuscirci perché la ragazza era bloccata dal panico. 4 soccorritori sono stati sbarcati con l'elicottero in un punto più alto, hanno allestito una sosta con i chiodi e l'hanno tirata su di peso con la corda e l'imbragatura per portarla alla base dell'itinerario. Da qui l'hanno imbarcata assieme al fratello. La stazione di Trieste del soccorso alpino è intervenuta con 7 tecnici per soccorrere un uomo rimasto bloccato sulla ferrata Rose d'Inverno a causa di una forte distorsione a un arto inferiore. I tecnici lo hanno raggiunto in parete, immobilizzato, adagiato in barella e calato lungo la parete per 60 metri per poi trasportarlo a braccia fino all'ambulanza. A Sappada una 65enne veneta è stata soccorsa nel pomeriggio di ieri a 200 metri dagli impianti di risalita che arrivano al rifugio Gosse per una probabile frattura alla caviglia subita mentre scendeva a piedi dai laghi d'Olbe. E un residuato bellico della Seconda Guerra Mondiale è stato trovato nel fiume Tagliamento a cavallo tra le province di Udine e Pordenone, in una zona che interessa i comuni di Codroipo, San Vito al Tagliamento e Valvasone Arzene. Il disinnesco della bomba di grosso calibro, 900 kg con circa 550 kg di esplosivo, si svolgerà domenica tra le 7.30 e le 9 del mattino. Saranno bloccate diverse strade, sarà attivato un cordone di controllo. Il disinnesco sarà coordinato dalla prefettura e dalla questura di Pordenone e sarà affidato ai reparti speciali dell'esercito. A Trieste è stata inaugurata la prima delle 14 isole ecologiche che saranno allestite in centro. Il comune, Acegas, APS e AMGA vogliono così aumentare la percentuale di raccolta differenziata, che è la più bassa in regione. Nuove isole ecologiche per ricordare al cittadino che per alzare la quota della raccolta differenziata c'è bisogno della collaborazione di tutti, a cominciare dalla consapevolezza che ogni rifiuto, anche piccolo, va buttato nell'apposito cassonetto. Saranno 14 le nuove isole che appariranno nei prossimi giorni nelle zone più frequentate di Trieste, la prima ad essere stata inaugurata è quella di Largo Panfili. Si tratta di un'iniziativa del comune avviata con Acegas APS e AMGA per aumentare la raccolta differenziata in città che, nonostante le campagne di sensibilizzazione, raggiunge solo il 45%, il valore più basso in regione. I triestini non amano differenziare l'umido, che è la frazione più importante per migliorare il risultato cittadino complessivo. Nel corso dell'anno sono state raccolte 5.450 tonnellate di rifiuto organico. Federico Trevisan della Acegas APS e AMGA. Noi ovviamente dobbiamo aumentare la volumetria dei raccoglitori, curare anche gli aspetti di raccolta nelle zone periferiche, spingere anche su processi di automazione per rendere sempre più efficiente questo processo. E tra i progetti futuri ci sono anche le isole ecologiche sotterranee. Ci sono dei progetti anche molto ambiziosi che contano sui finanziamenti del PNRR e che vorrebbero potenziare i sistemi di raccolta anche tramite delle soluzioni sotterranee. Quindi sì, pensiamo a delle soluzioni anche per Piazza Sant'Antonio, per Piazza della Borsa e Piazza Goldoni. Tra le cattive abitudini dei triestini c'è anche l'abbandono dei rifiuti ingombranti a terra, lungo i marciapiedi o nelle vicinanze dei contenitori. Mediamente si assiste a circa 3.000 abbandoni al mese. Trieste, Vaciuk, TGR, Friuli Venezia Giulia. Quindicesima tappa per la goletta verde di Legambiente in Friuli Venezia Giulia, che proporrà dibattiti su acque e crisi climatica. Obiettivo dell'iniziativa la difesa delle acque e delle coste con il rafforzamento del sistema delle aree protette e il lancio di progetti per tutelare le specie a rischio. Appuntamento a San Giorgio di Nogaro, ai cantieri Marina San Giorgio, dalle 9.30. Prevista alle 9.45 una tavola rotonda sull'emergenza idrica nella pianura friulana, a cui parteciperà Chiara Calligaris, ricercatrice all'Università degli Studi di Trieste. Le abbiamo chiesto una sintesi del suo intervento. Possiamo semplicemente raccontare intanto come si è formata effettivamente la nostra pianura e le nostre falde nella regione, da che cosa sono costituite sostanzialmente, da ghiaie molto grossolane nella zona dell'alta pianura e da sistemi multifalda nella zona della bassa pianura, e che tutta l'acqua che abbiamo a disposizione è unica, nel senso che il ciclo dell'acqua è sempre lo stesso e che quindi dobbiamo stare molto molto attenti a come la utilizziamo e alle modalità in cui effettivamente la preleviamo, e quindi è fondamentale conoscerla per poter poi utilizzarla nel modo migliore. E questa è la criticità, cioè la origine unica di queste falde? Eh sì, assolutamente sì, questo è fondamentale, perché non solo dal punto di vista quantitativo ma anche qualitativo. Quindi cioè, se noi preleviamo ad esempio acqua che ha 200-300 metri di profondità, è acqua di estrema buona qualità che ci impiega moltissimi decenni a ritornare all'interno delle falde, e quindi è fondamentale non sprecarla e usarla nel modo migliore per scopi idropotabili sostanzialmente, quindi per bere, non sicuramente per quelli industriali o agricoli, per cui possono essere utilizzate anche acque che possono essere prelevate a profondità molto inferiori. Ormai sono tantissimi anni che le falde vengono monitorate dal servizio idraulico, le falde presenti nella zona dell'alta pianura, e quindi si vede, analizzando le serie storiche, che c'è una decrescita dei livelli, una diminuzione dei livelli che è legata proprio a quelli che sono i cambiamenti climatici in atto e soprattutto alla modalità di precipitazione che è cambiata proprio nell'ultimo ventennio. Lo sport ora: ai campionati europei di nuoto di Roma, ieri quarto posto per la staffetta femminile 4x200 stile libero, in cui gareggiava la friulana Alice Mizzau insieme a Linda Caponi, alle due sorelle Cesarano, Noemi e Antonietta. Schierata in prima frazione, Mizzau ha tenuto il passo di Olanda e Gran Bretagna nei primi 100 metri, ma ha perso terreno nelle altre due vasche, chiudendo le proprie fatiche in quinta posizione con un tempo al di sotto delle attese. Le altre staffettiste azzurre hanno recuperato solo in parte, chiudendo al quarto posto: oro all'Olanda, argento alla Gran Bretagna, bronzo all'Ungheria. Gara sfortunata per il triestino Piero Codia, che era impegnato nella semifinale dei 50 farfalla uomini. Il giuliano è partito male, ha chiuso solo quarto in 23 secondi e 48 centesimi con il nono tempo complessivo. Codia è dunque rimasto escluso dalla finale di questo pomeriggio. Sono deluso, ha detto, ci tenevo a gareggiare per una medaglia, ma questa specialità è sempre molto competitiva. Questa mattina l'udinese Matteo Restivo scenderà in vasca per le batterie dei 200 d'orso. Il calcio: domani inizierà per l'udinese il 50° campionato di Serie A della sua storia. In programma a San Siro la sfida contro il Milan, in quella che sarà anche la gara di apertura della prima giornata. Il gol di Zico nello storico 3-3 di San Siro, la rovesciata della rimonta di un Udinese che faceva sognare i tifosi nell'anno dello Zico Austria. Ma non solo. Sabato Milan Udinese aprirà la Serie A. Per i friulani la 50ª stagione nella massima serie sarà celebrata con una maglia speciale, un traguardo da festeggiare, perché solo in 12 squadre hanno fatto meglio. E siccome la storia sa ripetersi, nella prima partita dell'Udinese in Serie A, stagione 50-51, furono proprio i rossoneri a tenerli a battesimo. Finì 6-2 tra i marcatori Lidolme, Nordahl e Perissinotto, che entrò nei libri di storia come primo a segnare con la maglia bianconera nella massima categoria. 50 stagioni in A, di cui ben 27 consecutive con la stessa filosofia. Ultima vittoria a San Siro, settembre 2016, rete del dimenticato Perizza, ora capocannoniere in Israele. Anche quest'anno l'obiettivo sarà quello di mantenere la categoria. Un allenatore esordiente, Sottil, una squadra che ha perso Molina, ha venduto Udogi, che rimarrà Udine un'altra stagione, ma come da tradizione li ha sostituiti con giovani pressoché sconosciuti che poi alla fine in Friuli trovano le loro migliori annate. La sfida ai campioni d'Italia sarà un test per vedere se sarà necessario aggiungere qualcosa. Dopo qualche spavento di troppo, in Coppa Italia contro la Feralpi, dove ha risolto Deulofeu, che a sua volta potrebbe partire, destinazione Marsiglia. Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Parliamo ora di sport invernali, anche se siamo in piena estate. Ci sono novità per la Federazione del Friuli Venezia Giulia, alle prese con un problema amministrativo per le ultime elezioni di luglio, che sono state invalidate a causa di una irregolarità di diritto al voto. Il neoeletto presidente della Federazione Sport Invernali del Friuli Venezia Giulia e tutto il consiglio direttivo sono decaduti dalle funzioni nei giorni scorsi e rimangono in carica solo per l'ordinaria amministrazione. Una svista della Commissione Poteri su una delega al voto ha di fatto annullato i risultati delle votazioni del 30 luglio scorso, che avevano visto la riconferma per il prossimo quadriennio del presidente uscente, il tarvisiano Maurizio Dunhofer, aprendo di fatto le porte al commissariamento della FISI regionale. Ora si attende da parte del presidente nazionale della FISI, Flavio Roda, un decreto ufficiale di nomina del commissario, che verrà ratificato nel Consiglio nazionale della Federsci, previsto per il 30 di agosto. Tra i papabili, a ruolo di commissario, fanno sapere dalla FISI, verrà scelta una personalità di grande prestigio nello sport legato alla nostra regione. Le nuove elezioni regionali dovranno tenersi prima del 15 ottobre, data nella quale verrà eletto a Milano il nuovo organismo federale nazionale della FISI. Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia. 7.46, diamo inizio alla rassegna stampa dei quotidiani oggi in edicola. L'apertura dell'edizione di Trieste del Piccolo è per la vicenda Wärtsilä, e nel sommario si legge dell'approvazione del presidente dell'autorità del sistema portuale, Zeno D'Agostino, per il sostegno dei trasportatori ai lavoratori della multinazionale finlandese. C'è poi la nota del gestore di energia Edison che precisa come la muggesana Tirso non sarà lasciata al buio a settembre nonostante le difficoltà economiche, perché subentrerà il servizio di salvaguardia così come stabilito dall'autorità di regolazione per l'energia. Ancora in tema economia, l'inflazione che a Trieste in luglio ha sfiorato il 10%. Fotonotizia per il sindaco Roberto Di Piazza, che sostiene la decisione di riservare i parcheggi retrostanti il comune agli assessori ed esorta i cittadini a servirsi del silos in zona stazione. Per la politica è retroscena sul collegio uninominale di Trieste, che pare l'unico contendibile dal PD in regione per un seggio alla Camera. Altro servizio, quello sui 6 milioni di euro dal PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per le scuole dell'area giuliana. Denaro che, secondo i presidi, dovrebbe essere speso non solo per le strutture, ma anche per personale e formazione. Infine, l'appello dell'esponente DEM, Deborah Serracchiani, che chiede al Comune di spostare i fondi per la cabinovia a favore della realizzazione di due linee tranviarie. Scoperti in Friuli i primi contagiati di un altro virus, l'usuto, questa è l'apertura del Messaggero Veneto di Udine. Nella fotonotizia il carrello della spesa, delle famiglie, pane, pasta e carne, tutti gli aumenti. Di spalla c'è Cotti, il prof politico, già presidente della regione, sindaco di Udine, va a insegnare matematica in Cina. Sotto la sanità regionale Regattin si dimette, Turello alla direzione sanitaria dell'azienda Friuli Centrale. Ad aprire la cronaca cittadina, le difficoltà della Quieta alle prese con la carenza di personale, un solo infermiere per 3 reparti. E ancora, calciatore dell'Udinese parcheggia nella ZTL, multa e carro attrezzi per il francese Sopi in via Cavour. In taglio alto, titoli per il piano europeo per l'austerity, con tagli al consumo di gas, e poi criptovalute e crack bancari quando il risparmio è a rischio. In taglio basso poi la storia, tornano sui banchi per i 100 anni della loro maestra Vittoria Apollonia, festeggiata a Plaino dagli ex alunni. Nuovo virus dall'Africa, 2 infetti, l'apertura del Gazzettino edizione del Friuli, poi piccole imprese che crescono in montagna nella fotonotizia. Giovanni da Udine, sottoportici chiusi ai senza tetto, un'altra notizia, è di spalla dalla regione, 300.000 euro per far nascere nuove imprese e poi le ispezioni per il lavoro irregolare con la sospensione di 2 attività. Udinese, nozze d'oro da celebrare a spese del Milan, e poi accanto il malore dello storico Malgaro di Casera Pieltinis. L'edizione di Gorizia del Piccolo apre con il piano scuola, che riserva 4 milioni di euro del PNRR agli istituti dell'Isontino. Fotonotizia per l'incendio al sentiero Rilke, mentre per la cronaca si legge dell'iniziativa Ricordo della Domenica delle Scope del 1950. La giornata sarà commemorata con il Festival della Birra Transfrontaliero, che sarà allestito domani in piazza Transalpina. La pagina di Monfalcone apre con la richiesta di archiviazione per il reato di associazione a delinquere a carico dell'azienda polese di Sacile in merito alla gestione dei rifiuti derivanti dai dragaggi del porto cittadino. La richiesta è stata accolta dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Pordenone. I fatti risalgono al 2017. Da grado il licenziamento di un neodipendente della casa di riposo per il sospetto di maltrattamenti a danno di un ospite. Sul Gazzettino di Pordenone, nella fotonotizia, ettolitri di acqua per lavare la chiesa, è successo in città. Ubriaco alla guida, fermato mentre dorme all'incrocio, l'uomo è stato denunciato, risiede a Vaillant. Di spalla Sacile, il mutuo del palazzo Ettoreo girato alla scuola di quartiere di Sano Dorico. A Fontana Fredda il vescovo comunica i nomi dei parroci, mentre in taglio basso Zamarini chiama i tifosi, abbiamo bisogno di voi. Sul Messaggero, stress e burocrazia, ecco perché molti medici lasciano, dice il presidente dell'Ordine di Pordenone Lucchini. Poi l'inchiesta sulle abitudini che cambiano, addio ai contanti, c'è chi usa il banco, ma anche per pochi centesimi. A Sacile mancano i fondi e così l'assessore compra la fototrappola per pizzicare i furbetti dei rifiuti. In taglio basso lo sport, Cristian Arena, pesista pordenonese sospeso per doping, perde il titolo italiano. Thank you. provengono da 18 paesi europei, 110 musicisti, tutti d'età compresa tra i 18 e i 26 anni, che compongono quest'anno la Gustav Mahler Jugendorchester, celebre orchestra giovanile fondata oltre 35 anni fa dal maestro Claudio Abbado. Tra i talenti selezionati quest'anno dalla compagine internazionale è da segnalare il violinista nativo di Pordenone Francesco Venudo, classe 2000. L'orchestra si esibirà oggi a Gorizia al Teatro Verdi alle 20:30. In programma la Sinfonia numero 40 in Sol minore K550 di Mozart, che state ascoltando in sottofondo, e la suite per orchestra d'archi di Leos Janacek, primo lavoro orchestrale del grande compositore ceco. Ancora musica, il pianista e compositore Glauco Venier sarà protagonista per il Festival Carni Armonie del concerto da lui ideato, creato e condotto Pierpaolo Suite. Voci recitanti Alejandro Bone, Veronica Dariol, danzatori della compagnia Arearea a Fornia Voltri, sala cinema alle 20:30. È in memoria del maestro Giovanni Canciani il concerto dell'ensemble Audimus con la direzione di Francesco Gioia, che eseguirà musiche di Franz Krommer, compositore e violinista boemo ottocentesco, a Paularo a Villa Calice alle 18:30. A Lignano, concerto di Rene Grandi, tappa del Turio in blues alle 21:30 in piazza Marcello d'Olivo. Il giovane cantautore italo-francese Antoine Ruiz sarà protagonista del nuovo appuntamento di Folkest, il festival dedicato alla musica di tutte le etnie e le culture del mondo, a Udine, alla corte di Palazzo Morpurgo, alle 21. Electroway, lo spettacolo della band triestina 1000 Streets, che si esibirà con i ballerini della Metropole Dance Crew a Trieste al Castello di San Giusto alle 21. Le pianiste Eleonora e Beatrice Dall'Agnese suoneranno a Lignano Sabbiadoro presso il Duomo alle 21:15. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le anticipazioni del giornale radio. A seguire il quotidiano appuntamento con un classico della letteratura friulana del secondo Novecento ad opera di Don Giuseppe Marchetti. Alle 11:20 un tranquillo weekend da paura estate. I programmi regionali torneranno poi alle 14. In regia Gianpaolo Zucchi e Mauro Cumini. In redazione ha collaborato Laura Sarasini, da Maria Spezia e Rita Micoli. Grazie per l'ascolto e l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.